Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di alcuni settori produttivi, ma parleremo anche della manovra che ieri siamo riusciti a commentare solo tramite agenzia. La manovra, alcuni dettagli della manovra, ma mancano invece altri elementi. Questo nel giorno in cui c'è stato e si è concluso poco fa l'incontro, la conferenza stampa tra il Premier Conte e il Premier spagnolo Sanchez. Da quello che si è capito, Spagna e Portogallo dovrebbero utilizzare solo, per quello che riguarda il Recovery Fund, la parte di prestiti, scusatemi, la parte a fondo perduto, non quindi di sovvenzioni, non di prestiti. Quindi solo finanziamenti a fondo perduto. C'è sia Spagna che Portogallo stanno ancora tentennando sul MES. C'è oggi un pochino di polemica, non come ieri, sull'utilizzo del MES. Per quello che riguarda la Spagna vorrebbero usare circa 70 miliardi, il Portogallo una decina di miliardi del Recovery Fund. E di questo parleremo in apertura, parleremo anche del mondo delle costruzioni, continua il nostro viaggio infatti che facciamo quotidianamente nei vari settori economici. Oggi vi è stata l'assemblea dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, valutata positivamente l'iniziativa del super bonus al 110%, però preoccupazione per lo smart working nella pubblica amministrazione, che rischia di rallentare o sta già rallentando tutta la parte burocratica, che è già lenta prima del coronavirus. Il rischio infatti è appunto che oggi l'ANCE ha stimato in 310 giorni il tempo in media necessario per le decisioni sui mega fondi per le infrastrutture della Presidenza del Consiglio. Ci sono voluti infatti per i 43 miliardi della legge di bilancio 2019 235 giorni tra i pareri del Parlamento e il DPCM. L'anno precedente, nel 2018, c'erano voluti quasi 400 giorni per 36 miliardi. E per i 20 miliardi di investimenti in infrastrutture messi nella legge di bilancio si stima un'attesa di 340 giorni, e anche questa obiettivamente è un'attesa lunghissima. Tra l'altro su questo l'ANCE chiede appunto una velocizzazione e teme molto che il lavoro a distanza nella pubblica amministrazione rallenti tutte le procedure autorizzative. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, e poi anche invece altro settore che sta conoscendo invece meno crisi, anzi, è il settore dell'information and communication technology. Si è tenuto infatti il primo rapporto su ricerca e innovazione, e da questo punto di vista, questo in collaborazione con l'Agenzia per la promozione della ricerca europea, praticamente si valuta quanto anche l'attività della pubblica amministrazione possa incrementare la ricerca in sviluppo e innovazione con 400 milioni di euro annui. Per quello che riguarda il MES non vi tornerò. È chiaro che i tassi di interesse sono bassi, la convenienza con tassi di interesse così bassi grazie all'operazione della Banca Centrale Europea è un risparmio che dai 500 milioni stimato in 3-4 mesi fa è sceso tra i 250 e i 300 milioni. Continuo a ribadire però che i tassi restano bassi adesso, finché continua a esserci il bazooka cosiddetto della Banca Centrale Europea. Il MES vale 10 anni, nessuno mi può dare garanzie che fra 2 anni, terminata sta pandemia e tutte le operazioni di emergenza, i tassi non torneranno a crescere. È un po' l'esempio che si fa quando chiedi un mutuo: se i tassi restano bassi per 10 anni, oppure se tu invece preferisci affidarti a quello che è l'andamento dei tassi di mercato. È chiaro che adesso sono quasi praticamente a zero, ma è altrettanto chiaro che non resteranno a zero per i prossimi 10 anni, a meno che non si voglia immaginare un'ipotesi talmente tragica di una banca centrale europea che continua a acquistare titoli di Stato perché le economie sono ancora in ginocchio. Dunque, ma non voglio, ripeto, tornare sul MES, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, adesso analizzeremo anche, sono usciti, stanno uscendo i dati di oggi, ci toccano nel programma e quindi li diamo, i dati di oggi su i nuovi contagiati. Adesso li guardo assieme a voi e chiaramente i dati di ieri erano falsati, come sempre la domenica ci sono meno tamponi e quindi il dato si riduce. Adesso vediamo di capire invece il dato diffuso oggi, lo sto vedendo in questo momento. Allora, ci sono 144.000 tamponi, quindi sono tornati a salire, 10.800 nuovi positivi, 89 morti. Questa è l'ultimo flash di agenzia. Per quello che riguarda i non ho altri dati in questo momento, però appunto sono sempre sopra i 10.000, ma sotto gli 11.000 nuovi positivi sono saliti, mi sembra, in maniera anche significativa, 90, quasi 89 i morti. Adesso vi daremo gli altri dati di carattere clinico, come si dice in gergo, perché manca. Ieri erano stati 73 i deceduti e oggi appunto 89. Allora, andiamo adesso, attendiamo le altre agenzie, appunto, non ho altri dati in questo momento. Andiamo per quello che riguarda la borsa e Milano, adesso vi parleremo tra un attimo. Allora, invece la parte dell'area euro, secondo il Financial Times, il deficit dei vari paesi, degli stati membri dell'euro andrà verso i 1.000 miliardi, l'8,9%. Per quello che riguarda l'euro bond, l'obbligazione sure social, quella che serve a finanziare le misure a sostegno dell'occupazione durante la pandemia. Ancora, lì ci sono state richieste per 233 miliardi totali. L'emissione obbligazionaria ammonta complessivamente a 17 miliardi. Per quello che riguarda invece l'incontro tra il Premier Conte e l'omologo spagnolo Sanchez ha detto: senza Italia e Spagna non avremmo avuto il recovery fund, siamo uniti per una leadership in Europa. E poi Conte ha chiesto, il Presidente del Consiglio ha chiesto che il recovery parta il 1 gennaio, non si può aspettare, e ha chiesto che le misure locali mantengano un coordinamento nazionale, ricordando che ora la strategia è di misure restrittive localizzate. Sapete già dai nostri GR24 che anche la Campania chiuderà alle 23 da venerdì, dalle 23 fino alle 5 di mattina. Per quello che riguarda invece i dati bancari, prosegue il boom di depositi, ecco perché io continuo a dire attenzione a dare soldi a questo punto in maniera diretta, meglio darli in base ai fatturati, alle imprese, meglio fare investimenti. Perché? Perché L'ABI oggi fa notare che l'aumento dei depositi bancari a settembre è stato dell'8%, più 8%, a 1.681 miliardi, un incremento di 125 miliardi in più rispetto a un anno fa, depositati sui conti correnti, proprio come conseguenza dell'incertezza economica. Le sofferenze bancarie invece sono calate grazie alle moratorie, soprattutto sono tornate ai livelli del settembre 2009. Questo appunto perché le moratorie hanno sospeso pagamenti sia di mutui che di altro tipo di prestiti, accelerano i prestiti bancari a famiglie e imprese, più 4,8% a settembre. Questo perché prosegue anche l'andamento positivo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, i quali hanno superato i 93 miliardi. Quindi i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia per 1.176.000 domande, di cui la stragrande maggioranza, come sempre 945.000, sono le domande fino a 30.000 euro per 18 miliardi e mezzo. Nei prossimi giorni qualcuno mi sta contestando sul lavoro a distanza, adesso vi arrivo. Nei prossimi giorni però ci occuperemo dei fondi ancora a disposizione, perché le domande continuano a aumentare, a significare che il meccanismo sta funzionando. Se ne sono toccate 1.176.000 domande, forse c'è qualche dubbio ancora sulla montare dei fondi a disposizione. Per quello che riguarda invece l'INPS, la cassa integrazione Covid, praticamente l'INPS ha fatto sapere di aver erogato in questi mesi 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione a 6 milioni e mezzo di lavoratori. Per quello che riguarda invece la vicenda Atlantia, attendiamo, è arrivato l'ok del Cassa Depositi e Prestiti, del CDA, a presentare l'offerta per l'88% di ASPI. Chiaramente non è da sola, perché CDP, Cassa Depositi e Prestiti, Equity, Blackstone e Macquarie sono i tre soggetti. Però oggi Iscat ha detto è preoccupata per la situazione del concessionario autostradali. Dice di essere preoccupata per una soluzione che rischia di essere pasticciata sulla cessione da parte di Atlantia dell'88% che ha dentro Autostrade per l'Italia. Sulla chiusura e sui coprifuochi decisi dalla Regione Lombardia, allora i centri commerciali sono molto preoccupati, dicono attenzione a non chiudere i centri commerciali durante il weekend, lo dice Roberto Zoia, perché i weekend rappresentano i giorni di maggiore introito, sia 20-30% del fatturato settimanale, e la Lombardia rappresenta almeno il 20% dei circa 140 miliardi di euro di fatturato che l'intero settore dei centri commerciali ha, con 780.000 posti di lavoro. La Confcommercio Milano stima che con il coprifuoco e la chiusura dei weekend il giro d'affari scenderà del 70% rispetto adesso, o fino a 1,5 milioni di euro di incassi al giorno contro i 6 milioni in un periodo normale. Preoccupati anche i ristoratori lombardi, dicono chiudere le 23, non le 24, non ha senso. Il coprifuoco è la morte, capiamo benissimo le preoccupazioni, il problema è che la richiesta è arrivata dai sindaci lombardi e dalla regione Lombardia. Da questo punto di vista non è arrivata in questo caso dal governo nazionale. Allora qualcuno vuole che dia altri dati, adesso ve li do, state tranquilli, lo dico però ad alcuni ascoltatori. Dunque volete spettacolizzare i numeri, mi scrivono alcuni. No, guardi, non stiamo spettacolizzando niente. A chi continua però a negare perché non avete dato risalto anche gli anni scorsi ai morti e contagiati per influenza, guardate, c'è un dato che dovrebbe mettere a tacere tutti, è il dato di Eurostat, e andate a vedere, l'abbiamo ricordato ieri, la mortalità in Italia nel periodo gennaio-giugno rispetto all'andamento dei 4 anni precedenti, cioè gennaio-giugno dei 4 anni precedenti. Ebbene, emerge che in Italia vi sono stati, rispetto ai 4 anni, alla media dei 4 anni precedenti, 40.000 morti in più, che sono anche più alti, anzi 44.000 rispetto a quelli che noi abbiamo certificato come morti per Covid, diciamo così, o positivi al Covid. e in Francia 30.000, in Spagna 40.000, cioè questi sono dati statistici. Allora, o immaginiamo che sia successo qualcos'altro, o se no bisogna prendere atto che, presi i morti per influenze, i morti, diciamo, i decessi dei 4 anni precedenti, confrontati con lo stesso periodo, quindi gennaio-giugno di quest'anno, c'è una differenza di 44.000 decessi in più. Punto. È inutile che continuate a scrivere manga, allora conteggiamo anche le influenze, i morti per inquinamento, i morti per tumore. Lo so benissimo. Ah, allora, andiamo a vediamo se sono uscite altre agenzie ancora più nel dettaglio per quello che riguarda i contagi e il bollettino di oggi. Dunque, no, non ne vedo ancora. Risalgono i contagi, sto cercando di capire quando arriveranno anche i dati sui ricoveri in terapia intensiva e invece nelle terapie normali anche i dimessi, ma l'agenzia non le sta ancora buttando fuori, aspettiamo. Eccole qua, più 73 le terapie intensive e invece non ho ancora altri dati, stanno arrivando col contagocce oggi. Dati, noi teniamo dritto con le altre notizie. Dicevo della decisione lombarda, ne ha parlato questa mattina con Simone Spezia l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Ha detto: la Lombardia, la situazione è difficile, ma in altre regioni è anche peggio, ma comunque è da questa fotografia della situazione che ci siamo mossi per chiedere appunto una misura più restrittiva come il coprifuoco dalle 23 in poi a partire da giovedì. La situazione della Lombardia è una situazione difficile, analoga o leggermente migliore di quella di tante altre regioni. Oggi Campania, Lazio, Liguria sono messe molto peggio della regione Lombardia. Qui stiamo lavorando in via, se vogliamo, preventiva, nel senso che adottare misure restrittive oggi può aiutarci a evitare misure ancora più restrittive domani. Quindi sapendo che cosa abbiamo avuto oggi, stiamo cercando di prevenire una situazione che gli studi matematici ci dicono potrebbe portare ad un incremento molto ampio di posti letto nelle prossime settimane, diciamo tra le 400 e le 600 persone, insomma, potrebbe andare in rianimazione da qua al 31 ottobre se non si riducono quindi se non si mettono in campo misure restrittive e arrivare anche a 4.000 persone ricoverate. Allora, altri dati, ripeto, 10.000 oggi su 144.000 tamponi effettuati, 145.000, 89 morti, 10.864 nuovi casi. Ho altri dati a questo punto, gli aumenti in terapia intensiva sono più 73 per un totale di 870, i guariti dimessi sono in crescita rispetto a ieri, erano stati 1.500, oggi sono stati 2.046. I pazienti ricoverati con sintomi sono 780 in più e vanno a 8.454 complessivamente. 800 in più non sono pochi. In isolamento domiciliare al momento ci sono 133.000 persone ed appunto 8.450 sono i pazienti ricoverati con sintomi, 800 in più, mentre 870 sono quelli in terapia intensiva, 73 in più. Sempre in tema di Lombardia, oggi il sindaco di Milano ha chiesto di portare, ha detto che il comune porterà lo smart working al 50%. Ho dimenticato di citare il Piemonte, che ha chiuso i centri commerciali, ha annunciato che chiuderà i centri commerciali nel weekend. Invece il Veneto dice attenzione, Zaia oggi ha annunciato 5 livelli che andranno a valutare il livello di occupazione delle terapie intensive, da verde a rosso, in base a quale verrà rimodulata l'attività dei propri, degli ospedali veneti. Abbiamo capito dall'esperienza che mediamente comunque 200 posti letti in terapia intensiva non Covid li dobbiamo garantire. Durante il lockdown eravamo fortunati perché non avevamo i poli traumatizzati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con il lockdown gli incidenti che portavano per esempio ai poli traumatizzati erano ridotti al minimo, perché nessuno si poteva muovere, nessuno sostanzialmente circolava, si erano ridotti gli infortuni, per cui lì c'era anche una minor pressione sulle terapie intensive, perché la gente sostanzialmente era obbligata a stare chiusa in casa. Da 0 a 50 in base all'occupazione delle terapie intensive da pazienti Covid scatta la fase verde, da 51 a 150 la fase azzurra, da 151 a 250 la fase gialla, da 250 a 400 quella arancione, da 400 in su quella rossa. E ha detto Zaia: spero che questo sistema a fase aiuti i ragionamenti sul Covid, perché il rischio è di dover bloccare le altre prestazioni, quindi di aumentare comunque la mortalità complessiva. Sentiamo Zaia. La quinta fase, ve lo dico a quelli che spero finalmente capiscano perché siamo qui tutti i giorni a parlare di sta roba. La quinta fase dice, quindi sopra i 400 in terapia intensiva, sospensione attività ordinaria degli hub. Cioè gli ospedali si occupano solo dei Covid. Spero che questo sistema a fasi aiuti tutti a fare dei ragionamenti. Io vedo ancora qualcuno che si ostina ad andare a prendere le tabelle di mortalità di quella patologia, di quell'altro, di chi fuma, di chi attraversa la strada sulle strisce pedonali, di chi va a raccogliere le ciliegie e cade dall'albero. Sì, io le ho capite tutti questi bei esercizi che fanno, del fatto che c'è più rischio ad attraversare la strada, la tangenziale di Milano, che prendersi il Covid. Ok, ma volete capire che questa patologia ha un piccolo particolare, si riempie gli ospedali e quando sono pieni non riusciamo più a curare i pazienti classici. Lo volete capire che i nostri ospedali del Veneto erogano 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e se le dividete per 12 sono meno di 8 mila al mese, giusto? No, meno di 8 milioni al mese, quanto viene fuori? Ecco, facciamo 7 milioni di prestazioni al mese. Un mese di fermo degli ospedali, sono 7 milioni di prestazioni che non facciamo. Oh, non lo faccio mai, ma io voglio l'applauso per questo ragionamento di Zaia, che non può certo essere considerato un pericoloso membro del governo. Mi facciamo partire l'applauso, io lo faccio risentire praticamente tutti i giorni, perché è talmente lineare il ragionamento. Dai, vai con l'applauso. Vai. È talmente lineare il ragionamento che ha fatto Zaia, visto che anche io nel mio piccolo ricevo tutti i giorni WhatsApp di gente che mi dice: ma allora i tumori per lei fuma e l'attraversamento della strada. C'è un piccolo problema, che essendo un virus, come Zaia ha chiarito molto bene, va a saturare gli ospedali. Il problema non è quanto si muore di Covid, è quanto gli ospedali, o non è solo quello, quanto gli ospedali vengono saturati per evitare le morti da Covid e comunque perché arrivano i ricoverati. Questo è il piccolo problema che continua a non capire chi mi dice: mai visto, la mortalità è più bassa di tante altre cose. Ho capito, ma se tu attraversi la strada e hai un rischio più alto, non vai a saturare gli ospedali come fa un'epidemia. Questo è il piccolissimo problema, e lo dice Zaia. Adesso lo faccio risentire anche nella seconda ora, così. E perché anche ieri qualcuno ma non stiamo uccidendo. Il problema non è che stiamo uccidendo l'economia, che discorso, si sta cercando di non distruggere le attività, ma il problema non è semplicemente quanto è pericoloso prendersi il Covid, che comunque non è una passeggiata. Il problema è cosa succede a tutti gli altri malati. Non so, mi sembra un ragionamento così facile. Allora, Conte sul MES, ha detto, ha ribadito oggi: prenderlo o no non incide sulla sanità, non è una priorità politica, ma se qualcuno porrà il tema sul tavolo lo affronteremo. Per quanto riguarda il problema del MES, non ha nulla a che vedere per quanto riguarda le priorità politiche. Ovviamente, se qualche forza porrà il tema del MES sul tavolo, lo affronteremo, ma noi stiamo parlando dello strumento finanziario, non della politica sulla sanità. La politica sulla sanità, nel senso i contenuti, la strategia da perseguire, noi l'abbiamo già elaborata, l'abbiamo definita, abbiamo fatto un DPB, un documento programmatico di bilancio, abbiamo un disegno di legge di bilancio su cui stiamo lavorando, quindi non è collegata al MES la nostra politica sanitaria. Non è, vorrei rincuorare tutti i cittadini che ci ascoltano, non è che se prendiamo o non prendiamo il MES siamo più attrezzati o meno attrezzati per la reazione sanitaria in questa emergenza. No, lo dico, dico a qualche genio che continua a scrivermi, però l'anno scorso non abbiamo mica visto i carri funebri per i malati, per i morti, per influenza. Guardi, lei veramente, io capisco che insomma, la situazione sia difficile. Mi stanno scrivendo molti operatori medici, per esempio, devo... eccola qua. È un operatore ginecologico, insomma molti medici mi stanno scrivendo anche su WhatsApp che inizia a esserci già la sospensione di tutti gli interventi. Questo è il problema. Un'ulcera duodenale, chiaro che la devi curare, no? Cosa vuoi, andare in peritonite? Il problema è che si stanno, almeno in Lombardia, di nuovo ridistribuendo tutti i posti letto nei vari ospedali, per cui Fate Bene Fratelli ha deciso di fare in un certo modo. Questo è il problema. Vabbè, dai, andiamo sul metro pubblicità, perché poi devo affrontare il tema della manovra con Dino Pesole. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Un'ultima cosa la voglio dire a questi specie di negazionisti. Perché secondo lei, secondo voi, l'Irlanda ha, primo paese, oggi è tornata sul lockdown vero e proprio? Il Galles ha fatto un lockdown vero e proprio, hanno problemi enormi di posti di terapia intensiva. Secondo lei in Francia si divertono a chiudere i bar e i ristoranti alle 21 e a fare il coprifuoco fino alle 6 in 20 milioni, per 20 milioni di cittadini, perché sono le città più grandi della Francia su 60 milioni di abitanti? Non so, siamo tutti pirla gli altri, francesi, spagnoli, italiani, inglesi, irlandesi, gallesi, chi più ne ha più ne metta. Meno male che i geni li ho tutti io, alcuni che mi scrivono. 349-238-6666 per SMS WhatsApp. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Thread Needle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Dunque, mentre devo dire per correttezza mi sono arrivati anche moltissimi messaggi al 349-238-6666 di persone che lamentano che i loro parenti non riescono a essere operati, hanno avuto gli interventi rinviati già per la seconda volta, di diverso tipo, di carattere oculistico, ma anche di tumori. Insomma, ragazzi, questo è il problema. Tanto vi faccio risentire Zaia, perché immagino che chi continua a insultare ce l'abbia anche con il governo e quindi magari se lo sente dire da Zaia non può dire che stiamo facendo, come scrive qualcuno, la propaganda per il governo Conte. Allora, la manovra. Oggi il governo ha chiarito che il deficit aggiuntivo vale 24 miliardi, a cui si aggiungono 15 miliardi di fondi europei, ecco perché totalmente va a 39 miliardi. Cioè il governo anticipa l'utilizzo del recovery e utilizzerà 15 miliardi di fondi europei. Di questi 15, 3 sono stati già impegnati per gli sgravi fiscali nella decontribuzione per il Sud, che verrà finanziata con React EU, parte del piano Next Generation, ma è già disponibile, sono soldi già disponibili, è un meccanismo un po' tecnico. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E gli altri 12 invece possono essere ancora utilizzati. Ho capito un po' di cose, per esempio ho visto oggi la stima sull'assegno unico di cui dovrebbero beneficiare l'80% delle famiglie con figli fino a 200 euro a figlio, un aumento della spesa però del 40%, l'importo medio per famiglia, stima l'Istat oggi, è di circa 2.991 euro l'anno, circa 250 euro al mese, considerando la clausola di salvaguardia, insomma l'effetto netto, perché questo farebbe perdere altri benefici, sarebbe di circa 100 euro al mese in più, 1162 euro. Ho visto il rinvio delle cartelle esattoriali appunto al 1 gennaio. Faccio una domanda così cerco di andare o sbaglio o altri dettagli della manovra sono ancora, non dico fumosi, ma molto generici, Dino? No, non sbagli, perché come d'abitudine noi stiamo ragionando su quello che ci hanno comunicato, vale a dire le conferenze stampa, il testo del comunicato del Consiglio dei Ministri di 2 giorni fa, e stiamo ragionando non su dati che derivano da norme, ma semplicemente da anticipazioni, come dire, giornalistiche, perché non abbiamo e non lo avremo, almeno per un'altra settimana, il testo della legge di bilancio. Abbiamo però il documento programmatico di bilancio, che è un po' la cornice che è stata inviata a Bruxelles, e abbiamo la nota di aggiornamento. All'interno di questo quadro abbiamo le grandi cifre, che sono quelle che tu hai ricordato, cioè una manovra di circa 39 miliardi, di cui 24 in deficit, il resto anticipati, come hai ben spiegato, i 4 miliardi che vanno alla sanità sembrano confermati, ed è confermato anche quello che riguardo all'anticipo, in qualche modo, della riforma fiscale che andrà in vigore nel 2022, con l'introduzione dell'assegno unico per i figli, che però partirà a luglio e quindi costerà meno del 3 miliardi rispetto ai 6 stimati, perché partirà da luglio. Dino, resta con noi perché io ho un'altra domanda da farti. Allora, anche tu diciamo, confermavi che dovremmo avere i dettagli della manovra tra una settimana. Io ricordo però che il governo si era impegnato a metà ottobre a presentare i dettagli rispetto ai capitoli solo annunciati per il famoso recovery plan, che poi deve arrivare a inizio gennaio a Bruxelles ed essere analizzato dalla Commissione e anche dai vari paesi. Non ho, forse mi sono distratto io, più avuto ragguagli su questo. Cioè, abbiamo parlato della manovra ieri, ma 15 ottobre è scaduto, non che la data sia scolpita nella pietra, però vorrei capire se sta arrivando qualcosa di più sostanzioso su quello che sarà il piano italiano che verrà presentato a Bruxelles per utilizzare i fino a 209 miliardi che abbiamo a disposizione, 82 saranno di sussidi, prestiti per 127 miliardi. Dopo il traffico, la risposta. Focus Economia. Allora, Dino Pesole, a che punto siamo con la stesura del documento? Perché non vorrei mai, adesso stiamo commentando il ritardo con cui ci sono mosse le regioni e in parte anche il governo nell'approntare la seconda ondata, sia sui trasporti pubblici che sulle assunzioni nella sanità che sulle terapie intensive, e ripeto, è inutile dare sempre la colpa al governo, in molti casi la responsabilità è di carattere regionale, visto che la sanità è regionale, e anche nel trasporto locale. Perché sennò è facile dire sempre colpa del governo. Poi, dopodiché, abbiamo chiesto ieri che il commissario Arcuri, invece che fare molte ricostruzioni di scenario e così generiche, ci dia esattamente contezza di quello che è stato mandato, come ha funzionato o non ha funzionato il dialogo con le regioni in base alle richieste e alle riforme, le richieste di carattere sanitario fatte dalle regioni, cioè trasparenza anche su questo. Evitiamo di lasciare l'opinione pubblica così nel dubbio. Non sono arrivati i macchinari, le gare sono state fatte tardi, oppure invece i piani regionali sono arrivati tardi, quindi le gare sono partite tardi. Insomma, si potrebbe parlare di questo invece che di tanti massimi sistemi, lo dico anche al commissario Arcuri. Però, Dino Pesole, il dettaglio sul piano, o meglio, sul recovery plan, che doveva arrivare a metà ottobre? Il dettaglio non c'è. Abbiamo inviato a Bruxelles nei giorni scorsi le linee guida, che sostanzialmente sono in linea con quanto ci viene proposto dalla Commissione europea. La stessa Ursula von der Leyen, proprio qualche settimana fa, ha sostanzialmente detto che i fondi, questo sì, è una ripartizione che riguarda tutti i paesi, dovranno distribuirsi in linea di massima attorno a un 37-40%, che dovrebbe andare verso gli obiettivi del Green Deal, un 30% per la transizione digitale, il resto genericamente per gli interventi di carattere sociale. Questi sono i tre pilastri che ovviamente il governo deve perseguire, perché sennò i fondi non arrivano. Quanto ai progetti, i progetti ancora non ci sono, dovranno essere messi a punto da qui alla fine dell'anno, e devo dire che dovrebbe essere una priorità assoluta, perché a gennaio il recovery plan va presentato e quello sarà il vero banco di prova, perché questi non sono fondi, sia le sovvenzioni che i prestiti, non sono fondi a prescindere, sono fondi che verranno elargiti in tranche annuali in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti e anche delle riforme che saranno. No, ma tant'è che abbiamo fatto notare più volte che i fondi del recovery hanno tante condizionalità e vincoli, e anche di più rispetto a quelli del MES. Lo dico non per riaprire la polemica sul MES, però basta che mi venga raccontato un MES che è pieno di condizionalità e il recovery no. No, perché tra l'altro, oltre che dare via libera al piano quando verrà analizzato, poi ogni anno, come tu ricordavi, verrà guardato lo stato d'avanzamento. Avete chiesto 10 miliardi per dire le infrastrutture, a che punto siete con gli appalti, ne parleremo poi con Buia, col presidente del Lance, avete chiesto 5 miliardi per il verde, la transizione, a che punto siete, e via così, per cui ogni anno verrà fatto un punto sull'utilizzo di questi soldi. E questo è il punto fondamentale, quindi richiederà un lavoro di realizzazione enorme per il nostro paese, che ha, come sappiamo, una carenza strutturale nell'utilizzo dei fondi europei, sono circa molto meno della metà della media tendenziale. Allora, all'interno di questo discorso, che è per ora sospeso, siamo tutti in attesa di conoscere l'elenco esatto dei progetti e delle riforme, si innesca quello che tu dicevi, il dibattito che è politico, ma non solo, sul MES, perché obiettivamente il fatto che la scorsa settimana per la prima volta il tesoro si sia finanziato a tassi negativi sui BTP a 3 anni, mentre su quelli a 10 ancora c'è un rendimento attorno allo 0,7-0,8, in qualche modo potrebbe far drammatizzare il dibattito sul MES, ma fino a un certo punto, perché comunque questi sono fondi immediatamente esigibili, mentre come sappiamo fondi del recovery fund arriveranno non prima di giugno. Certo, e poi io continuo a dire, adesso però non voglio tornare sul MES, che è vero che adesso abbiamo tassi negativi sui BTP a 3 anni e allo 0,7 sui BTP a 10, però attenzione, perché i tassi non resteranno così per sempre, mentre il MES prevede che i soldi vadano restituiti in 10 anni, il tasso è negativo se lo restituisci in 7. E sostanzialmente non solo non paghi alcun interesse, restituisci un po' meno rispetto a quanto preso a prestito. Il prezzo decennale è il tasso è quasi nullo, 0,08%. Quindi, insomma, io ripeto, come se uno volesse prendere una casa, hai la possibilità di avere per 10 anni un prestito che devi restituire in 10 anni lo 0,08%, e uno dice: sì, però io lo faccio un mutuo a tasso variabile perché in questo momento i tassi sono bassi. Sì, ho capito, ma sei sicuro che fra 2 anni i tassi non siano tornati a salire, quando, speriamo tutti, la situazione economica sarà migliorata e non ci sarà più bisogno della Banca Centrale Europea che compri i titoli di Stato? Questo è il punto cruciale. Grazie intanto anche a Dino Peso. Le vorrei dare, prima della GR24, i dati di borsa. Allora, la chiusura è stata positiva per Milano, più 0,56%, negativa per Parigi, meno 0,30%, Francoforte meno 1%, Londra più 0,26%, Dow Jones più 0,70%. Per quello che riguarda i titoli, B per banca cresce molto, più 9,75%, ma anche altri titoli bancari si sono mossi bene: Banco BPM più 3%, Unicredit più 2,30%. UBS ha fornito oggi, il colosso svizzero, dati superiori alle attese, ha spinto un po' il settore bancario, bene anche Pirelli più 3,81%, Leonardo più 3,30%, Moncler più 3,13%, Tenaris più 2,30%. Fronte opposto invece Atlantia meno 3,17%, Prismian meno 1,60%, Fineco meno 1,40%, come Telecom Italia. Tra i titoli migliori e peggiori, adesso vi do anche la variazione tra migliori e peggiori in assoluto, segnale Novatek più 25%, Biper appunto più 9,70%, Saras più 6,60%. Fronte opposto invece, per quello che riguarda il peggiore in assoluto, Leone Film Group meno 6,40%, Fabila meno 4,50% e poi Caledo Group meno 4%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo adesso sul GR24. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Essere, non essere, qui sta il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, per l'idea dell'ave! Non sarà mai che i miei figli, io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua, in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Far diventare digitale il tuo business è più facile di quello che pensi. Con Team System, la gestione del tuo studio e della tua azienda evolve. Scopri gli eventi che liberano il tuo business. Vai su teamsystem.com. Se hai sempre sognato di possedere il famoso Gronchi Rosa, il francobollo più ricercato d'Italia, questo è il momento giusto. Grazie a Bolaffi, oggi puoi avere il francobollo più desiderato, con certificato di autenticità, ad un prezzo molto speciale. Chiama all'800 100 818 o vai su francobolli.it e scopri subito come avere a casa tua il raro Gronchi Rosa. Garantisce Bolaffi. 800 100 818 o francobolli.it. 2020. Anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti. Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. La storia di un incontro. Buongiorno, posso aiutarvi? Una richiesta d'aiuto. Ci serve un consiglio, non riusciamo a decidere. Fidatevi di me. La grande occasione. È fantastica, come possiamo averla? È più semplice di quanto pensiate. Il colpo di scena. Ah, dimenticavo, è usata. Incredibile. Dopo il grande successo della prima edizione, arriva la nuova stagione di I giorni dell'usato FCA. Scopri di più su www.igiornidellusato.it. Azimut Peerbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti. Andiamo adesso su due settori produttivi. Uno riguarda l'information e communication technology, l'altro riguarda quello più tradizionale, diciamo così, dell'edilizia, perché oggi si svolta l'assemblea del Lancio. Partiamo dal primo, perché è stato presentato il primo rapporto sulla ricerca e innovazione in information e communication technology in Italia. E sappiamo che il tema della digitalizzazione del paese, oltre che, come ricordava prima Dino Pesola, essere uno dei tre pilastri del Recovery Fund, è anche un tema sentitissimo, visto che ahimè si stanno realizzando alcune chiusure e di nuovo l'invito ad avere il lavoro a distanza, come si chiama, lo smart working. Per quello che riguarda l'indicazione arrivata dal rapporto, occorre investire, aumentare l'investimento in ricerca e sviluppo in innovazione di almeno 3 miliardi e mezzo per portare il paese a livello degli altri partner europei. La spesa è sempre più trainata da software e dai servizi. Nel 2018 è stata di 2 miliardi e 600 milioni, più 6,5 sul 2017. Chiedo al presidente di Anitech Assinform, Marco Gai. Buonasera, Gai. Buonasera. La spesa, voi non avete dei dati sul 2020 già, perché immagino che tutto l'investimento in information, communication technology, in digitalizzazione sia aumentato a causa anche del Covid. E poi vorrei capire quanta parte di queste risorse che voi stimate essere in 3 miliardi e mezzo potrebbero arrivare da un piano dettagliato di utilizzo dei soldi del Recovery Fund. Beh, inizio dalla prima parte della domanda. Noi abbiamo presentato nel mese di maggio i dati 2019 e i dati 2020 previsionali, chiaramente tenuto anche conto del periodo che stiamo attraversando, che davano un calo del settore del 3% con la promessa a valori costanti di recuperare già nel 2021 questo calo, seppur importante, ma questo dimostra anche un po' la vivacità del settore nella sua ripresa. È chiaro che quando si parla di recovery plan, oltre che di finanziaria di chi si sta discutendo in questi giorni, un'attenzione al digitale, alla ricerca e innovazione nel mondo ICT deve essere centrale. Due dati su tutti: a noi mancano tra i 6.500 e i 7.500 ricercatori nel paese in questo momento, e quindi vuol dire che abbiamo un ritardo rispetto alle potenzialità che potremmo sviluppare importante, e dall'altra parte gli investimenti in ricerca e innovazione nel mondo ICT per l'86% vengono fatti dalle imprese private, che è sano dal punto di vista delle imprese private, ma chiaramente ecco la differenza che c'è rispetto a quello che si potrebbe realmente fare, anche perché i talenti li abbiamo, le competenze anche, le aziende anche, e quindi ci va a convinzione, e dal recovery plan potrebbero arrivare veramente delle risorse, anche perché si chiama Next Generation EU e quindi dovrebbe investire sul futuro. Venendo invece a quello, per concludere Gai, per quello che voi avete notato nelle aziende in questi mesi, visto che le monitorate, sono vostre associate, c'è stato comunque, in attesa che poi arrivi anche il piano del governo, i fondi diciamo europei, comunque c'è stata un'accelerazione in questi mesi? Sicuramente c'è stata una reazione, prima di tutto, che una accelerazione, perché molte delle nostre aziende, anche col piano di solidarietà digitale, si sono messe in campo e si stanno mettendo in campo. Dal punto di vista della domanda, chiaramente c'è stato un aumento considerevole della domanda, perché quando si deve passare smart working e quando si comprende finalmente, e purtroppo per il trauma che stiamo attraversando, la necessità di informatizzare, digitalizzare processi nelle produzioni, chiaramente c'è un aumento della domanda, che però segnala un'altra difficoltà, purtroppo, che è la mancanza di competenze poi per chi deve lavorare sia in questo settore sia nelle aziende tradizionali. È chiaro che in questo momento c'è un focus sulla trasformazione digitale importantissimo, e noi ci aspettiamo altrettanto grande attenzione dai piani sia europei, ma questo è dichiarato, ma soprattutto nella progettazione poi italiana. Un'ultima domanda: c'è la sensazione, Gai, che delle volte, quando si dice ok, investiamo in digitale, un po' come è avvenuto per le spese sanitarie, si vadano a vantaggiare più le imprese estere che quelle italiane. Voglio dire, intanto è importante innovare, così come è importante comprare i macchinari in sanità e formare soprattutto i medici e il personale sanitario. Chiaro. Però è ovvio che tutti preferiremmo che la quota più grossa, la maggior quota possibile, fosse realizzata da imprese italiane. Ecco, nel mondo dell'information communication technology, quant'è poi l'incidenza? Mettiamo che il governo, attraverso recovery, dico una cifra a caso, metta 1 miliardo per aumentare la digitalizzazione del paese. Poi di questo quanto beneficerebbero le imprese italiane intese come fornitrici? Ma devo dire che noi rappresentiamo tutte le imprese, sia estere, multinazionali che hanno sede in Italia, che aziende italiane. Le aziende italiane sono chiaramente in grado di produrre tutta la tecnologia, tutto il software, tutto lo sviluppo necessario. E chiaramente questo deve comportare, siccome servono investimenti per fare questo, un piano di politica industriale che abbia questo al centro, perché sennò chiaramente le aziende italiane non riescono a traguardare il percorso che devono fare. Però la vivacità delle imprese italiane del settore è importante, e anche la collaborazione tra le multinazionali che hanno sede qua nel nostro paese e le aziende italiane c'è. Quindi io questo dubbio lo trovo un po' campanilistico e fuorviante. In realtà bisogna mettere l'opportunità in moto in maniera che si possa cogliere. Allora, andiamo. Grazie Marco Gai. Dopo il traffico, invece, come annunciavo, andremo su un settore completamente diverso, perché se la digitalizzazione è l'investimento per il futuro, infatti uno dei tre pilastri del Next Generation EU, l'investimento infrastrutturale resta anche questo nel recovery plan, perché le tre voci che sono appunto, da un lato la parte green, quindi sostenibilità ambientale, l'altra è la digitalizzazione, poi c'è tutto il tema dell'inclusione sociale. Ecco, se uno va a vedere la parte infrastrutturale, si spalma un po' nella parte sostenibilità ambientale, quindi green, ma anche nell'inclusione sociale, perché riduce le differenze tra i territori in questo senso. Oggi si è tenuto l'assemblea annuale dell'Associazione dei Costruttori Italiani e alcune ombre sono state evidenziate, anche alcune luci, penso soprattutto al super bonus al 110%, resta il timore molto forte dell'imbuto e quindi della possibilità che poi qualunque stanziamento si blocchi per la famosa macchina burocratica italiana e i tempi oggi elencati dal presidente dell'ANCE non dico che gettino nello sconforto, ma insomma, la dico prima del traffico. I dati del 2019 ci sono voluti 235 giorni tra i pareri del Parlamento e il DPCM per poi poter utilizzare i 43 miliardi stanziati dalla legge di bilancio. Parliamo di megafondi per infrastrutture. Sono necessari 310 giorni per utilizzare quelli in capo alla presidenza del Consiglio. Nel 2018 per 36 miliardi ci hanno voluti 397 giorni. Siccome adesso ce ne sono 20 di investimenti che in base alla legge di bilancio sono in capo appunto alla presidenza del Consiglio, la stima è di 310 giorni. È chiaro che si tratta di tempi troppo lunghi per arrivare poi all'utilizzo vero e proprio. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Il super bonus al 110% è uno strumento che oggi viene studiato da tutti i paesi europei. Un intervento che è una misura che ha il merito di tenere assieme e raggiungere tre grandi obiettivi: il rilancio del settore in primis, l'efficientamento energetico come secondo elemento, assieme ovviamente alla protezione sismica di un patrimonio edilizio che non è adeguato rispetto alla classificazione sismica del nostro territorio. E in terzo luogo è una misura che consente a cittadini anche non abbienti di vivere in un edificio confortevole. È necessaria una proroga dell'intervento. Oggi c'è un dibattito in parte surreale sulla stampa, sembra quasi che sia stato bloccato il super bonus. In realtà non c'è legge di bilancio, perché la legge di bilancio parla di ciò che accade nel 2021. Nel 2021 il super bonus è già esistente. La previsione di un anno per il super bonus rispetto all'eco bonus è un anno e mezzo per il sisma bonus, è un periodo troppo stretto perché arrivino i permessi di costruire, le necessarie autorizzazioni a svolgere gli interventi. E quindi assolutamente d'obbligo per noi proporre l'utilizzo di quelle risorse che arrivano dall'Europa in funzione alla proroga del super bonus. Allora, così il ministro Patuanelli oggi nel corso dell'assemblea dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente Gabriele Buia. Buonasera Buia. Buonasera a lei. Allora, il superbonus, ha ragione una cosa Patuanelli, è un meccanismo che stanno studiando anche da fuori e obiettivamente la cosa importante sarà prorogarlo certo, perché i tempi poi sono lunghi. Allora, come funziona? Lo dico brevemente perché alcuni mi hanno scritto: ma è vero che si può cedere? Sì, certo che si può cedere il credito. Uno, allora, mettiamo che io spenda 1000 euro per una ristrutturazione, un intervento di carattere appunto ecologico, dentro, di maggiore sostenibilità energetica e ecologica dentro la casa. Questi 1000 euro, nel momento in cui devo fare la dichiarazione dei redditi, valgono 1100 euro, ecco perché si dice 110%, quindi porto in detrazione 1100 euro, che posso usare appunto in compensazione. Oppure questo importo lo posso scontare in 5 anni, quindi 5 rate di pari importo, o chiedere all'impresa che ha fatto i lavori uno sconto in fattura pari al 100% della spesa a fronte della cessione del credito fiscale. Cioè, poniamo che invece l'impresa per cui io a cui ho chiesto di fare i lavori mi costi 10.000 euro di lavori. Ora, io posso decidere di cedere, quindi cosa faccio? Le imprese emettono una fattura pari al 100, una fattura da 10.000 euro con uno sconto del 100%, quindi io non tiro fuori un euro, però cedo tutto questo all'impresa. A questo punto l'impresa si vede riconosciuto dallo Stato un credito d'imposta utilizzabile in compensazione per 11.000 euro e può decidere di cederlo ad un'altra impresa, a una banca, con uno sconto del 9%. In questo modo riceverà 10.010 euro, mentre chi lo acquista ottiene a sua volta 11.000 euro di credito d'imposta. Quindi anche l'impresa che ha fatto i lavori può cederlo appunto con questo sconto. Ecco perché il meccanismo può essere anche molto agevole per me se decido di portarlo tutto in detrazione, oppure se decido di non spendere un euro e dare tutto il beneficio che avrei avuto in fase di detrazione all'impresa. Buia, se ho ben capito la misura, è ovvio che la guardate con favore. La vostra preoccupazione su questo, ma soprattutto sulla spesa infrastrutturale, citavo i 20 miliardi per le opere prioritarie che sono in capo alla Presidenza del Consiglio, è sui tempi, non paradossalmente sulla disponibilità economica? Certo, assolutamente sono i tempi, sono quelli che bloccano l'utilizzo delle risorse, perché per esempio, come lei ha accennato, i 20 miliardi del maxi fondo presso il Consiglio dei Ministri doveva essere distribuito ai ministeri all'inizio di quest'anno, sono passati ormai 10 mesi e non c'è ancora il decreto del Presidente del Consiglio su queste, per cui un altro anno perso, e dopodiché i ministeri a loro volta dovranno ulteriormente distribuire queste risorse, per cui allunghiamo, non facciamo mai ricadere sull'economia reale gli investimenti che lo Stato fa, ma questa è una prassi consolidata. Negli ultimi 4 anni c'è una media degli ultimi 4 anni di 310 giorni circa, per cui capisce bene che aspettare un anno solo per distribuire dei fondi in questo momento particolare è un po' illogico, no? Ecco, per quello che riguarda invece la parte infrastrutturale, prima parlavamo con Dino Pesole dell'attesa che c'è, insomma, per capire il dettaglio del recovery, o meglio un piano per l'utilizzo dei fondi del recovery più dettagliato rispetto a quello per capitoli presentato. E sappiamo che una parte importante il governo ha già individuato in un DL le opere prioritarie, le opere da commissariare a livello infrastrutturale. Anche qui lei ritiene che si debba poi arrivare a una formulazione particolare, molti citano il ponte di Genova come esempio, per far partire subito i cantieri, penso all'alta velocità, penso a finire le opere di carattere anche autostradale o stradale, perché ci sono anche i collegamenti non di carattere autostradale, cioè una cabina di regia, ma soprattutto una specie di commissario ad hoc per far accelerare queste opere? Ma guardate, è chiaro che ormai le opere, quelle bloccate, devono essere sbloccate tramite l'azione di un commissario, perché onestamente non possiamo pensare altrimenti in questo momento, non c'è possibilità di applicare la normativa come attualmente oggi ipotizzata e come è stata scritta. Al di là di quello ho chiesto al Ministro, mi hanno chiesto anche al Governo di far sì che dopo questa prima tranche in cui si spingono le opere e si fanno partire, prendano la straordinarietà dell'opera commissariale e la vadano a mutuare in un'ordinarietà della norma. Perché tutte le volte dobbiamo chiamare un commissario per sbloccare delle opere? Ma sappiamo dove sono i problemi, interveniamo a monte, facciamo in modo che questi blocchi non accadano più. È paradossale continuare a lavorare con dei commissari. Cosa facciamo il codice d'appalti per fare? Per poi derogarlo continuamente con i commissari? Benissimo. Quindi lei dice, se ho ben capito, lei dice, ora come ora le opere bloccate, ma si stanno sbloccando le opere nel frattempo, Buia? Ma sicuramente sicuramente la ministra sta dando molto impulso a tutte le pratiche burocratiche e amministrative per avviare i cantieri e ultimamente anche Ferrovie dello Stato ha appaltato 3 lotti di grande importanza, perché dobbiamo dare atto che ha spartato 2 miliardi e 2 di opere. Però il problema è, se andiamo a analizzare quell'opera, singola opera, ci accorgiamo che ha avuto un travaglio di anni. E questo adesso, guardi, nelle prime 17 opere dell'Italia Veloce, 12 di quelle 17 opere arrivano ancora dalla legge obiettivo del 2001. Sì. Sono quasi 20 anni e le opere cominceranno adesso a essere cantierabili, almeno ipotizziamo che non ci siano altri stop. Però, capite, 20 anni solo per metterle in lista e farle diventare operative, farle scendere sui territori. Ma non è possibile, non possiamo in questo momento noi come Paese Italia avere questi ritardi, inconcepibile, guardate. Quindi lei dice, con le opere di Italia Veloce, appunto, ce ne sono 30 commissariate, è giusto andare avanti con i commissari perché certo. Si accumula altro ritardo. Però nel futuro... Lei dice dovremmo tornare prima o poi anche a un elemento di normalità. Certo. Che quota ritenete importante di investimenti infrastrutturali per le opere, appunto, a partire da quelle bloccate, da quelle definite prioritarie dal decreto Italia Veloce, dovrebbe essere richiesta dal governo per l'anno prossimo e messa anche in manovra per la parte infrastrutturale? Ma si parla di 40 miliardi circa di opere, ma è chiaro che io vorrei capire esattamente come impatteranno le risorse del Recovery Fund sulle programmazioni già in essere, cioè le opere del Recovery Fund saranno aggiuntive o saranno sostitutive di quelle già messe in atto dal governo, e questa è la dirimente. Per cui se sono aggiuntive sicuramente avremo un moltiplicatore economico, purché si cantierizzino alla svelta le opere. Se invece sono sostitutive, l'effetto è quello previsto, però bisogna capire di quelle opere prioritarie col commissario in quanto tempo i cantieri si apriranno, perché se sono finanziate con i soldi del Recovery Fund, ricordo a tutti che quelle opere devono essere finite per il 2026, rendicontate e finite. È una bella sfida. Sì, è anche un obiettivo magari ogni tanto per riuscire ad accelerare anche i tempi burocratici. Anch'io sono d'accordo con lei che almeno nelle 30 opere indicate come prioritarie d'Italia dal decreto Italia Veloce i commissari vadano fatti e debbano e sono l'unico strumento. Poi un domani speriamo di riuscire anche a rendere più veloce l'intero iter e riformulare in maniera più costruttiva il codice degli appalti. Grazie anche al presidente dell'ANCE Gabriele Buia, noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.